Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Abbiamo con noi il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo e bentornato. Ciao Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, con te oggi parliamo di una notizia che fa capire come cambiano un po' i tempi, no? Le rapine in banca sono in via di estinzione, nel senso che non ci sono quasi più? Sì, come hai detto te, le rapine in banca sono proprio quasi estinte, però questo non significa che le truffe non avvengono, perché come esitato dall'ultimo rapporto Clusit, il 90% delle rapine sono di genere informatico, quindi significa che anche chi fino a ieri era abituato ad assaltare le banche o incappucciarsi con una pistola e saccheggiare le casse o le cassaforte, oggi invece si cerca di operare, stanno dietro a una scrivania e con un monitor e un PC riuscire a superare quelle che sono i vari livelli di sicurezza che le banche utilizzano. Ecco, se una volta si usava molto il contante, quindi dovevi andare in banca ogni giorno, dico, per prelevare, scaricare, adesso insomma molte transazioni vengono fatte elettronicamente e anche le rapine non sono più così fruttuose. Diciamo che sono più comode rispetto a una volta e meno pericolose, e diciamo anche che sicuramente anche chi opera in quest'ambito è riuscito ad adeguarsi sempre più tecnologicamente per essere all'avanguardia con i tempi. E comunque rimane interessante questo dato, come il 90% delle rapine avvengono quindi informaticamente, e come oggi esista una collaborazione con la polizia postale che cercano di aumentare quelle che sono le soglie di sicurezza delle banche nei confronti di questo fenomeno. Quindi è sempre più facile che magari qualcuno si impossessi del nostro bancomat, di una copia, riescano ad avere il codice di accesso e a prelevare del denaro, insomma, a nome nostro. Ecco, questo è un altro tipo di truffa, sono le famose carte di credito clonate o le famose fonti di identità. È vero Francesco che se da una parte, come detto, assistiamo a un fenomeno che attaccano le banche utilizzando i sistemi informatici tecnologici, quindi adesso io non so neanche quali che sono le protezioni che le banche hanno, ma certamente immagino le transazioni o gli acquisti di un tipo rispetto a un altro, dall'altra il consumatore è esposto anche ai fenomeni della clonazione delle bancomat, delle carte di credito, delle fonti di identità o quelli che sono un po' anche tutte quelle furberie che cercano tramite internet a criptare i nostri dati o i nostri codici per poi effettuare quel tipo di transazioni che ormai sono insomma note a tutti e di cui certamente per chi acquista internet sappiamo di cosa parliamo e che sicuramente deve far riflettere tutti su quelle che sono le sicurezze da adottare in questo genere di transazioni e di acquisti. Certo, quindi è cambiato un po' il modo di assaltare, tra virgolette, le banche. Addirittura leggevo che ci sono 4 regioni a rapina zero, che sono il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta. Sì, leggevo anch'io questi dati, mi chiedevo perché la Sardegna rispetto alle altre, ma abbia nelle battute ci sono queste 4 regioni, come hai detto. Ed è anche curioso come il bottino è sceso dai 33.000 euro ai 29.500, quindi c'è anche una diminuzione dell'importo, e poi c'è anche il fatto di come dal 2007 ad oggi praticamente c'è stato questo calo di oltre il 90% di crimini, che sicuramente ha ridotto almeno i clienti ad essere più sicuri quando andano in banca, ma certamente non hanno esposto le casse delle banche a questi tentativi di truffa. È vero comunque Francesco che noi come Adico ormai siamo abituati ad affrontare questo genere di vicende, perché non c'è giorno che non ci sono dei consumatori che si rivolgono a noi perché hanno subito questo genere di truffe, magari in un modo o in un altro. Poi è anche bene ricordare ai consumatori di essere molto sicuri quando si effettuano un genere di acquisti tramite internet, perché il modo migliore è comunque utilizzare sempre le carte prepagate ed evitare di utilizzare i dati delle carte di credito normale, perché poi facilmente sono criptabili e ci si accorge troppo tardi magari degli acquisti. Come spesso bene anche ricordare, è sempre preferibile utilizzare il sistema di SMS Alert, che può aiutare anche a contenere subito eventuali tentativi di truffa o di somministrazione del denaro. Eh sì, sempre di più comunque si tende a pagare anche attraverso internet, anche lo Stato dà questa possibilità con i vari pagamenti di bollo auto piuttosto che, quindi questa è la tendenza del futuro e bisognerà sempre stare molto attenti a preservare i nostri codici di sicurezza e a non farceli catturare, il famoso phishing si chiama così, vero? Questa è una correttezza che non ci stancheremo mai di ripetere e soprattutto stare molto attenti quando si utilizzano queste carte, di queste forme di pagamento, perché è sempre importante anche stare attenti a quando, a dove si conserva il codice PIN e a non farsi fregare quando si digita i tasti ed evitare quindi che qualcuno ci possa memorizzare, quindi magari anche adottando dei comportamenti corretti come può essere coprirsi la tastiera con le mani o cercare di evitare anche di passare due volte quando la transazione la prima volta fallisce. Ricordiamo che i fenomeni delle carte clonate, dei bancomat, di tutto questo genere ne abbiamo tantissimi. La banca generalmente è sempre responsabile della sparizione del nostro denaro, perché ricordiamo che lei ha la responsabilità di custodire i nostri risparmi, per cui ricordiamo ai consumatori che quando rimangono vittime di questi debiti fraudolenti di far subito denuncia alla polizia postale e non esitare, qualora non riescano a ottenere la restituzione delle cifre indietro, a rivolgersi a noi. Proprio per questo l'Adico c'è, ricordo il sito www.associazionedifesaconsumatori.it dove poi trovate i contatti che possono essere utili. Grazie al presidente Carlo Garofolini, ci sentiamo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.